santo e ti lì accanto a lei, da quando un grido li avvertì, sta per morire la mamma. Sono tutti lì accanto a lei, tutti i suoi figli sono lì, con quello che lei maledì, tornato a braccia aperta lei. Tutti i bambini sono là, intorno a lei che se ne va, nei loro giochi più non c'è il gioco bello dei perché ha la mamma. E la riscaldano di baci, di sguardi dolci ed infelici, sta per morire la mamma. Santa Maria piena di grazia, la statua è là giù nella piazza, e voi tendendole le braccia, cantate già Ave Maria. Tanto amore, tanto dolore, intorno a te, la mamma, amore che non finirà, intorno a te, la mamma. E fuori là dietro la porta, la gente attende sotto il sole, sta per morire la mamma. Il vino buono viene offerto, non c'è nessuno che ne vuole, è loro omaggio per chi muore, per chi ha vissuto come lei. È strano a dirsi ma è così, nessuno piange ma c'è chi una chitarra prenderà, la ninna nanna suonerà la mamma. E l'aria è piena di canzoni e di dolcissimi altri suoni, sta per morire la mamma. Le donne intanto a bassa voce, perché si possa addormentare, come un bambino quando è sera, cantano già Ave Maria. Ave Maria. C'è tanto amore, tanto dolore, intorno a te, la mamma, amore che non finirà, intorno a te la mamma, che giammai, giammai, giammai ci abbandonerà.